24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Draghi via libera agli acquisti di titoli di Stato a 3 anni, borse europee positive dopo il governatore, gli studenti francesi a lezione di etica. Barroso su Twitter ha 5.000 utenti in pochi minuti. Una buona serata da Valentina Furlanetto. Gli acquisti di titoli di Stato fino a 3 anni non costituiscono un finanziamento monetario agli Stati. Così il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha parlato all'Europarlamento in attesa della riunione del 6 a Francoforte, dove svelerà il suo piano anti-spread. Il governatore quindi ha aperto la possibilità per la Banca Centrale di acquistare sul mercato secondario i titoli di Stato dei paesi più fragili, Italia e Spagna in testa. Davanti a 95 membri dell'Europarlamento, il governatore, secondo diverse fonti, ha argomentato che un finanziamento a 2-3 anni ha una vita troppo breve per essere considerato creazione di moneta. Non sarebbe quindi l'equivalente dal mettersi a stampare moneta fresca. L'eventuale intervento, però, ha avvertito Draghi, sarà legato a severe condizioni. E mentre prosegue a distanza il duello con il capo della Bundesbank, il ministro delle finanze tedesco Schauble si è detto sicuro che i giudici tedeschi non troveranno il fondo di salvataggio incompatibile con la legge tedesca. Negli stessi minuti in cui parlava Draghi, Angela Merkel dalla Baviera dava intanto una stoccata ai mercati che negli ultimi 5 anni, secondo la cancelliera, hanno consentito a parecchia gente di arricchirsi a spese della maggioranza. Ma sullo sfondo si profila già la delicata tornata elettorale in Olanda. Vista da nord e vista da sud-est, la prospettiva cambia. L'Unione Europea, che apre con una nuova linea della metropolitana nella capitale bulgara Sofia, con tanto di taglio del nastro da parte del presidente della Commissione Barroso, sembra davvero lontana anni luce da quella che, nel nord dell'Europa, divide gli animi di una competizione elettorale combattuta nel nome dell'euroscetticismo. Mentre il presidente della Commissione parla di giornate decisive in cui la crisi ha mostrato i limiti dell'azione individuale degli stati nazionali, all'orizzonte si avvicina a grandi passi il voto olandese del 12 settembre. Appuntamento incerto che vede crescere la popolarità del leader socialista Emil Romer, ex insegnante di scuola elementare, convinto che avere ancor più Europa non è la soluzione alla crisi dell'Europa. I socialisti, ha detto chiaro il leader olandese, sono contro gli obiettivi di austerità della Commissione, secondo i quali entro il prossimo anno i Paesi Bassi dovrebbero ridurre il loro deficit di bilancio al di sotto del 3% del PIL. E se la Commissione dovesse minacciare sanzioni contro l'Olanda? Romer ha già risposto pubblicamente: dovranno passare sul mio cadavere. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. La difesa degli acquisti dei bond nazionali da parte della BCE, fatta dal suo presidente Draghi, ha dato fiato alle borse europee in una seduta caratterizzata dalla chiusura dei mercati americani per la festività del Labor Day. Chiusura in vivace rialzo per le borse europee, fatta eccezione di Madrid, che è rimasta al palo mettendo a segno un lieve progresso dello 0,18%. Intanto il numero uno dell'Euro Tower, Mario Draghi, ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli investitori. Il FTSE MIB sul finale ha registrato un progresso dell'1,1%. A Piazza Affari si sono impennate le Campari, più 7,9%, nel giorno in cui la società di bevande alcoliche ha annunciato l'acquisizione dell'azienda giamaicana di rum per quasi $500 milioni. Bene tutto il settore del lusso. Fiat ha invece perso lo 0,7%, andando giù insieme a tutto il comparto auto europeo nell'attesa dei dati sulle vendite di agosto. Fuori dal paniere principale si sono di nuovo impennate le RCS, che così dallo scorso 24 agosto, giorno in cui l'amministratore delegato del gruppo ha promesso per l'autunno un nuovo piano industriale, hanno più che triplicato il proprio valore. I titoli hanno dunque acceso i riflettori su tutto il comparto editoriale, con le Mondadori che sono volate del 20% e l'Espresso del 10%. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e il Sole 24 Ore. E come avete sentito, soffre il mercato dell'auto in Europa. In Francia le vendite di nuove auto in agosto, secondo i dati resi noti dall'Associazione dei Costruttori, sono calate dell'11,4%. Sentiamo allora la situazione in Italia. Agosto freddo per le vendite di auto in Italia. I dati resi noti dal Ministero delle Infrastrutture vedono un calo del 22% rispetto allo stesso mese del 2011. In cifre sono circa 56.500 immatricolazioni contro oltre 70.000. Nei primi 8 mesi dell'anno il calo è del 19,8%, con poco meno di 1 milione di vetture immatricolate contro oltre 1,2 milioni di un anno fa. La Fiat ha immatricolato ad agosto 16.700 vetture, con un calo più o meno simile a quello del mercato e una quota quindi praticamente invariata, appena sotto il 30%. Il mese tradizionalmente più fiacco per le vendite a causa delle ferie non ha dunque cambiato la tendenza in atto dall'inizio dell'anno. Particolarmente forte, meno 27%, il calo delle vendite a privati, che risente del peso della crisi economica sulle famiglie. La previsione per l'intero 2012 si colloca a circa 1,4 milioni di auto vendute contro gli 1,76 del 2011. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nestlé si appresta a conquistare il mercato dei lattanti dagli 0 ai 3 anni. Sarà infatti in vendita tra pochi giorni in Francia, dopo il lancio avvenuto un anno fa in Svizzera, un apparecchio di lusso per la preparazione del biberon con le capsule di latte in polvere. Bimbi e genitori superviziati, preparatevi. La Nestlé è pronta a far sbarcare in Europa la sua prossima rivoluzione. Niente caffè, ma questa volta latte, e per palati quanto mai esigenti, i bambini da 0 a 3 anni. Eh sì, avete capito bene, l'azienda che ha reinventato la macchinetta per il caffè ha deciso ora di brevettare il biberon perfetto. Un apparecchio che permette di preparare il latte in polvere per i più piccoli in meno di un minuto. Tempo record anti-strilli e senza misurini da riempire. Il sistema, infatti, come per il caffè, è quello delle capsule. E come per la bevanda da adulti, ci sono già pronte 6 diverse miscele, diverse secondo i gusti, ma soprattutto le necessità nelle fasi di età dei più piccoli. Dopo aver selezionato la temperatura, si inserisce la capsula nella macchina che filtra l'acqua del rubinetto e voilà, il biberon perfetto è pronto. Sarà in vendita tra pochi giorni in Francia, dopo il lancio sperimentale un anno fa in Svizzera. Unico neo, si fa per dire, i costi. Il Baby Nest costa infatti 200 euro e una scatola di 26 capsule 40 euro. Uno schiaffo alla crisi nelle tasche delle famiglie europee e chissà chi toccherà questa volta fare da testimonial per la campagna pubblicitaria. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo in Francia. Dal prossimo anno gli studenti francesi studieranno l'etica repubblicana. Sentiamo di cosa si tratta. Il presidente della Repubblica francese François Hollande lo aveva promesso il giorno del suo insediamento all'Eliseo. L'istruzione sarà una priorità di questo quinquennio. E così il ministro dell'Educazione nazionale Vincent Pillon, in un'intervista, rilancia promuovendo l'insegnamento della morale laica in tutte le scuole francesi, dalle primarie fino alle secondarie. Un corso di studio che dall'anno prossimo dovrà insegnare a distinguere il bene dal male, i diritti dai doveri, ma soprattutto a dare una priorità ai valori della società, con tanto di professori preparati ad hoc e voti in pagella. Non si tratta, ha spiegato il ministro, di un corso di educazione civica, ma di un insegnamento che formi i giovani francesi alla tolleranza, al rispetto, alla solidarietà e alla conoscenza. La scuola, ha aggiunto Pillon, deve esercitare un potere spirituale sulla società. Il rinnovamento della Francia parte dalla scuola, che secondo il ministro deve colmare quei vuoti che possono facilmente essere occupati da mercanti e integralisti di ogni genere. Livio Lazzari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente della Commissione europea Barroso è sbarcato su Twitter. Dal profilo di Barroso verranno inviati anche messaggi dallo stesso presidente. Sono felice di partecipare con tutti voi a Twitter. Costruiamo insieme l'Europa 2, ha scritto Barroso nel suo primo tweet. In pochi minuti il profilo @BarrosoEU è stato sottoscritto da quasi 5.000 utenti. Il Parlamento europeo per la prima volta ha aperto al pubblico una parte della sua vasta collezione di oltre 550 opere d'arte raccolte negli ultimi 50 anni. L'esposizione è visitabile gratuitamente fino al 31 ottobre presso il Parlamentum di Bruxelles, il centro visitatori parlamentare più grande d'Europa, inaugurato lo scorso anno. Ed è stato firmato da Polonia e Italia un accordo per la cooperazione nell'ambito del programma di osservazione della Terra dal satellite Cosmos SkyMed di seconda generazione. L'accordo prevede che la Polonia acceda a una quota delle capacità di Cosmos SkyMed seconda generazione pari al 2,5% del sistema complessivo e che acquisisca dall'industria nazionale italiana, cioè da Finmeccanica, uno User Ground Segment integrato nel sistema Cosmos SkyMed. Ed è tutto per questa edizione di Euronet. Un saluto da Valentina Furlanetto. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.